Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini Incrociati vi trasporta nell'universo magico e sfavillante del musical. Quello spettacolo potente e comunicativo, fatto di scenografie meravigliose, costumi esagerati e luci imponenti, che da anni diverte ed emoziona milioni di spettatori in tutto il mondo. Ad accompagnarci in questo viaggio in cui coreografie sontuose e musiche indimenticabili creano un'alchimia affascinante e unica, è la nostra prima protagonista, una voce che tocca le profondità dell'anima, il soprano di maggior successo di tutti i tempi. Il suo nome è Sarah Brightman. Sarah Brightman. Please welcome the one and only Miss Sarah Brightman. Come on! Sarah Brightman ha 21 anni quando da una piccola cittadina dello Hertfordshire va a Londra per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. È bella, solare e piena di energia. Sa ballare e ha una voce incredibile. Non ha niente da invidiare a tutte quelle ragazze che ce l'hanno fatta e nonostante tutti i no ricevuti ai provini, è decisa a non mollare. È incredibile come fossi determinata. Ero così giovane e volevo farcela a tutti i costi. È pazzesco. Siamo nel 1981 e Londra è il cuore d'Europa, la metropoli multietnica e piena di occasioni che con il suo tripudio di vetrine illuminate, insegne al neon e il sogno di centinaia di ragazze che, come Sarah, hanno voglia di emanciparsi da quella provincia inglese fatta di brughiera, case dal tetto di paglia e sale da tè d'altri tempi. Ma Sarah a Londra ha un obiettivo preciso: partecipare al provino per entrare a far parte del musical Cats. Cats, Sarah non lo sa ancora, sarebbe diventato uno dei più grandi musical di tutti i tempi. Dal suo debutto è stato rappresentato in 26 paesi e in più di 300 città. Si tratta della trasposizione teatrale delle poesie sui gatti che Thomas Stern Eliot ha scritto nel 1939 per i suoi nipoti e che successivamente gli sono state pubblicate sotto forma di raccolta. La trama è semplice. Tutti i gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano per l'annuale ballo e per festeggiare il vecchio gatto Old Deuteronomy, il loro capo. Nel corso della festa, uno dei gatti avrà l'onore di ascendere al Heaviside Lair, il paradiso dei gatti Jellicle. Tutti i gatti uno a uno si presentano e raccontano la loro storia agli umani. L'impatto è travolgente. Sarah è a casa, sul divano, annoiata, quando leggendo il giornale si imbatte nell'audizione per il musical. Pochi giorni prima, all'ennesimo rifiuto da parte di un coreografo, aveva deciso di essere fatalista. O arriva un segno del destino o smetto di provarci, si era detta. E adesso quel segno era davanti a lei, scritto nero su bianco, di fianco a una pubblicità di un dentifricio. Sarah capisce in un attimo che tutto il suo futuro dipende da quel provino. Sarah non ci pensa due volte, corre in camera sua, apre l'armadio e butta in una borsa qualche maglietta e un paio di jeans. Lascia detto a uno dei suoi fratelli che sta partendo. Le luci del palcoscenico la aspettano, a Londra. Sarah arriva a Londra piena di entusiasmo. Trova una sistemazione in un ostello per studenti e si presenta all'audizione il giorno stabilito. È ancora mattino presto, ma davanti a lei la coda di aspiranti attori è impressionante. Le selezioni andranno avanti per giorni. Solo per iscriversi ci mette ore. A Sarah viene dato il numero 1879. Prende una spilla da balia dal kit di cucito di emergenza che ha sempre in borsa e si attacca il cartellino bianco al body di licra. È agitata, ma la sua determinazione la mantiene concentrata. Mentre aspetta il suo turno, inizia a fare qualche esercizio vocale, poi passa allo stretching e mentre si riscalda, chiacchiera con gli altri candidati. C'è ansia, paura. Un ragazzo ha un attacco di panico e bisogna portarlo fuori. Una ragazza irlandese rinuncia proprio prima che tocchi a lei. Un'altra esce dalla sala dell'audizione piangendo. Il regista l'ha insultata. D'altra parte, chi ha già partecipato a un casting con lui l'ha dipinto come un burbero aggressivo che non accetta meno dell'eccellenza. Qualcuno è stato interrotto prima della fine della sua esibizione, qualcun altro è stato addirittura cacciato in malo modo. Tutto questo è solo un sintomo della sua frustrazione, dovuta al fatto che non sta trovando quello che cerca disperatamente. È una sensazione tipica tra i registi alla ricerca dei loro attori, come racconta Saverio Marconi, il regista della versione italiana di Cats. Tutti pensano che il regista sia lì a giudicare. No, non sta giudicando. Sta cercando, e credo che l'ansia di tutti i ragazzi che si presentano al provino sia niente in confronto all'ansia e alla trepidazione di un regista che spera di trovare le persone giuste per il suo spettacolo. Sara è emozionata, tesa, ma decisa a non lasciarsi spaventare dalla fama che accompagna questo grande regista. Deve rimanere lucida per fare colpo sulla giuria. Sa che questo provino è troppo importante e non deve bruciarsi questa occasione. Far parte di un musical può aprirle le porte dello spettacolo e le luci di Broadway sono proprio il suo sogno. Broadway a New York, la strada che ospita un numero di teatri impressionante, è ormai leggendaria. Lì ogni stagione si alternano musical storici, diventati classici, e produzioni sempre nuove che attirano milioni di spettatori da tutto il mondo, affascinati da musica e coreografie ad alto tasso di spettacolarità. Comparire in un musical di successo a Broadway è il sogno di tantissimi ballerini, attori e cantanti che lo vedono come punto di arrivo. E non a caso molte canzoni, storie e interi musical sono basati su questo sogno di gloria. Uno su tutti, Fame. E se Broadway è la mecca del musical in America, il suo corrispettivo europeo è il West End, nel cuore di Londra. Ed è proprio lì che Sara sta per fare il provino della sua vita. Lei non vuole semplicemente cantare, mettere in scena una performance. È molto più ambiziosa. Vuole toccare nel profondo, divertire ed emozionare, far venire i brividi a chi l'ascolta e la guarda. Io non volevo essere una tipica cantante che viene vestita, esce e canta la sua canzone. Io volevo che per 55 minuti o quello che era, la gente si sentisse trascinata dentro un'atmosfera divina, in un suono rilassante, piacevole e meraviglioso. E al provino per Cats, Sara è lì per quello. La chiamano, è il suo turno. Appoggia il copione per terra, la voce è calda, i muscoli anche, e sa a memoria ogni parola. Un bel respiro dietro la quinta e si entra sul palco. Ed è in questo breve istante, davanti al lungo tavolo di legno della commissione, disposto al centro della platea vuota e silenziosa, che le passa tutta la vita davanti. Sara nasce il 14 agosto 1960 a Berkhamsted, Hertfordshire, una contea a nord-est di Londra. È la prima di sei figli e si deve responsabilizzare presto per aiutare nella gestione della casa. È una bambina serena, felice, grande sognatrice. Balla sempre, in camera sua, in cucina, non riesce neanche a stare ferma quando sta facendo i compiti. Prende lezioni di danza classica, fa stage con i migliori insegnanti internazionali e si dimostra fin da subito un'allieva eccellente. Il mondo dello spettacolo la attrae. Sa a memoria i vecchi film con Fred Astaire che balla il tip-tap, i balletti del repertorio classico, divora programmi televisivi e musica. D'altra parte, siamo nel pieno degli anni 70. L'atmosfera è scoppiettante, il mondo dell'arte è prolifico in tutte le discipline. Si respira creatività e ogni cosa viene esagerata e spettacolarizzata. Nell'universo della musica stanno esplodendo quelle che sarebbero diventate di lì a poco delle vere e proprie leggende del rock. Rolling Stones, Led Zeppelin, David Bowie, Elton John, Deep Purple. Sara fa tesoro di tutte queste suggestioni e ribadirà in più interviste che la commistione tra stili la affascina. È così bello. Sono stata molto fortunata nella mia carriera a toccare, grazie alla mia passione per la musica, diversi generi. Volevo toccare diversi stili. Sara Brightman è una ragazzina di provincia curiosa ed entusiasta. Nel coro della scuola scopre di avere una voce fuori dal comune che tocca tonalità altissime. Ha una personalità complessa, è risoluta, seria ed eccentrica. Chiusa nella sua camera, si cuce da sola vestiti e abiti di scena che indossa in piccoli spettacoli per amici e parenti. Cura tutto personalmente e non smetterà di farlo neanche quando diventerà, complice un incontro del destino, una diva acclamata in tutto il mondo. Ce lo racconta un giornalista inglese. Lei ha il controllo di tutto quello che riguarda la sua carriera. Mette passione in tutto quello che fa, dalle questioni creative e artistiche a quelle tecniche e di business. È la fine degli anni 70, quando Sara entra nel cast del programma televisivo The Kenny Everett Video Show. Kenny Everett è un comico inglese che viene dalla radio e passa alla televisione con grandissimo successo. Il suo programma è un contenitore di sketch con ospiti del calibro di Elvis Costello, Rod Stewart, Freddie Mercury e ABBA, che si mettono al suo servizio e si lasciano prendere in giro con grande autoironia. Le gag sono surreali ed esileranti, come questa, in cui un marito è convinto che la moglie nasconda un amante nell'armadio. Where is he? I know there's a man here somewhere. No, Harry, no, there's no one else. I love only you, Harry. Slave away at the office all day. Harry. While you're sitting here, no. Having a good time, eating chocolates, no, watching television, painting your nails. All'interno dello show, uno spazio è riservato al gruppo Hot Gossip, di cui fa parte Sara, che con il singolo I Lost My Heart to a Starship Trooper, in pieno stile trash anni 80, riesce a entrare nella top 10 inglese. Do you feel my devotion? Or are you like a droid? Sara è bella, ha un fisico da ballerina, canta benissimo e ha una personalità originale. Tuttavia, dopo il successo con gli Hot Gossip, ogni suo tentativo nel mondo dello spettacolo fallisce. Ogni singolo che prova a incidere è un vero e proprio flop. E così, a 21 anni, nel 1981, sta per perdere le speranze. È stata rifiutata a vari provini, le hanno sbattuto porte in faccia ad audizioni per balletti e in case discografiche. Sara soffre. La cosa che più vuole al mondo è stare su un palcoscenico davanti a un pubblico tutto per lei. Vuole assaporare il piacere degli applausi. Ma sa anche che questa attesa non può durare in eterno. Così si concede un'ultima possibilità prima di accantonare definitivamente il suo sogno. Ora è dietro le quinte del palcoscenico del teatro in cui si tiene la selezione. Indossa un body di licra viola, quasi una beffa alla superstizione, che vuole che quel colore in teatro porti sfortuna. È tesa, sicura del suo talento, ma molto agitata. Fa due passi avanti e si ritrova sul palco. Di fronte a lei, le sedie di velluto rosso della platea sono vuote e al centro della sala una commissione è pronta a valutarla, seduta dietro a un lungo tavolo di legno. Tutti hanno davanti un foglio su cui scriveranno il loro voto. Ma l'ultima parola spetterà al regista, quell'uomo scorbutico di cui si parlava tra gli aspiranti attori e che ha già scartato un numero impressionante di candidati. Però lui è il re del musical. A certa gente si concede qualche bizza. Il suo nome è Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Sara sa che si sta giocando tutto. Si presenta e inizia. Primi movimenti, la commissione resta in silenzio. Prime note, il regista si volta a parlare con una donna alla sua destra. Primi virtuosismi vocali. Il regista è impressionato, sorride. Alla fine della performance di Sara, batte addirittura le mani. Ha trovato l'attrice che cerca disperatamente da giorni, l'ingrediente mancante per mettere in scena il suo capolavoro, quello che diventerà un successo mondiale, Cats. Per Sara è solo l'inizio di una lunga carriera. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati a Londra. Una giovane ragazza ha appena fatto un'audizione per entrare a far parte del musical Cats e il regista ne è rimasto davvero colpito e la vuole nel suo cast. Entrambi ancora non sanno cosa significhi sia per l'uno che per l'altra accettare quella sfida. Sono Sara Brightman e Andrew Lloyd Webber. Sara stava per mollare. Dopo aver preso porta in faccia, collezionato insuccessi e ricevuto innumerevoli no ai provini, aveva deciso di concedersi un'ultima possibilità prima di abbandonare il suo grande sogno. E il destino ha voluto concedergliela con il provino per entrare a far parte del cast del musical Cats. Così ha ballato e cantato di fronte a una giuria estasiata, soprattutto di fronte a un regista che, scegliendola in quel momento, ne avrebbe fatto una star. Il grande Andrew Lloyd Webber. Right now would you welcome Andrew Lloyd Webber. Webber è il più grande autore di musical di tutti i tempi. Viene da una famiglia aristocratica di tradizione artistica. Suo padre è un compositore, sua madre è una violinista e pianista, suo fratello un violoncellista. Inevitabilmente inizia anche lui a comporre musica prestissimo, dimostrandosi un vero e proprio bambino prodigio. A 9 anni ha già pubblicato una suite di 6 pezzi. A me piaceva. Ero piccolo e per me era un gioco. Mi piaceva suonare. Suonavo per ore. Ma è grazie a una sua zia attrice che scopre cosa farà da grande. È lei, infatti, a fargli conoscere il mondo del teatro. Lo porta a vedere spettacoli, gli fa incontrare gli attori e lo fa stare in camerino con lei mentre si prepara. Per Andrew, stare dietro alle quinte è come far parte di una magia. I cavi con cui si apre il sipario, le vecchie scenografie abbandonate, quelle nuove appena montate, e poi le maschere di cartapesta, gli enormi fari che fanno luci colorate, il trucco. Tutto quel mondo lo travolge e vuole farne parte. Andrew ha talento da vendere. Nel 1965, quando ha solo 17 anni, incontra il paroliere Tim Rice e i due insieme scrivono il loro primo musical, The Likes of Us, di gusto retro alla Broadway degli anni 50. È un buon lavoro, ma piccolo se confrontato ai musical faraonici che produrrà di lì a poco. Lloyd Webber scrive ininterrottamente, fischia mentre cammina e si appunta melodie in testa. È un romantico, che cela dietro al suo aspetto burbero una forte timidezza. Ha il cinismo tipico di chi deve difendere se stesso dalla sua troppa emotività ed è così brillante che già nel 1970 arriva a produrre il suo primo capolavoro, una pietra miliare, un mito entrato nell'immaginario collettivo, Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar è la più celebre opera rock di tutti i tempi. La storia di un gruppo di hippie, giovani figli dei fiori che seguono l'ideale della libertà e dell'amore libero, che mettono in scena gli ultimi 7 giorni della vita di un umanissimo e ben poco trascendentale Gesù, che è pieno di dubbi e ha paura di morire. Coprotagonisti, ovviamente, Giuda Iscariota e Maria Maddalena, investita di un amore per Gesù che non sa comprendere. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything? Al suo debutto, il musical è una bomba. Siamo nel 1971, Londra è aperta e vivace. È la Londra della controcultura beat, della rivalità sottile tra Beatles e Rolling Stones, tra cui si doveva scegliere per forza. La Londra del mercatino dell'usato di Portobello Road e del quartiere degli artisti di Chelsea. Eppure Jesus Christ agita le polemiche. Lloyd Webber non dà per scontata la divinità di Gesù e racconta di una Maddalena innamorata di lui in modo sensuale. C'è chi grida allo scandalo, ma il successo del musical è travolgente, come racconta lo stesso Webber in un'intervista. Già dalla prima edizione, il pubblico era impazzito. C'era appena stato Woodstock e Londra era accesa. Ma Jesus Christ era provocatorio, trasgressivo. Il 1978 è l'anno di Evita, il cui tema Don't Cry For Me Argentina è diventato uno dei brani più famosi di tutti i musical. Si tratta della storia di Evita Perón, carismatica moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón, a partire dagli anni giovanili per arrivare alla sua prematura morte. Da un lato, Lloyd Webber mostra la venerazione che il suo popolo nutre per questa figura femminile carismatica. Dall'altro, però, ne critica il populismo attraverso un narratore ispirato a Che Guevara, che racconta la storia con un atteggiamento che oscilla tra l'ironia e l'ostilità. Ma è la musica, più che la storia, a farla da padrona, come sempre. Di nuovo, il musical è un successo strepitoso. A Londra si replica ogni sera per 10 anni, registrando sempre il tutto esaurito. Lloyd Webber sembra riuscire a leggere nel cuore delle persone. Racconta storie uniche, eppure universali, con musiche ormai entrate nella leggenda. Lui, con il musical, riesce a parlare di sé, da sfogo alla sua grande emotività, e soddisfa la sua urgenza di regalare evasione e profondità. La maggior parte delle volte cerco di trasmettere quello che provo. Poi ognuno può fare le sue interpretazioni, ma di fondo passa quello che sento. Perché vedi, il linguaggio della musica è universale. Lloyd Webber costruisce musical coloratissimi e sontuosi, quasi per reagire alla sua educazione di stampo rigido e tradizionalista, di una famiglia aristocratica intellettuale ma un po' fredda, che poco spazio concedeva agli slanci affettivi. E di questa cosa Andrew soffre, cerca sempre calore umano, incessantemente. Lo si percepisce ai provini quando valuta personalmente uno a uno tutti i candidati, scartandoli a volte sulla base di un'empatia che manca da subito. Ma non è quello che succede con Sarah Brightman. Siamo nel 1981. Lloyd Webber ha già raggiunto fama e onori con Jesus Christ Superstar ed Evita, ma lavora senza tregua. Sta componendo Cats. Memories, la canzone di Cats, ce l'avevo nella testa da anni. Dovevo solo farla uscire. È un perfezionista e continua a cercare. Nonostante il suo successo, sente che gli manca qualcosa. Ha la sensazione di aver completato un puzzle e di non trovare l'ultimo pezzetto. A volte di notte si mette al pianoforte, guarda la tastiera e scrive musica senza suonarla per non svegliare i bambini e sua moglie, Sarah Hagill, aristocratica discendente della dinastia Tudor, con cui ha un matrimonio annoiato, fatto di cene mondane e poche risate. Quando Sarah si presenta sul palco per sostenere il provino per Cats, Lloyd Webber si è quasi rassegnato. Non trova la gatta Gemina come la immagina lui. Ma a lei basta fare 2 passi di danza e accennare una melodia. Lui è turbato. Non gli sembra vero di averla trovata. Chiede consiglio ai membri della commissione, è incredulo. Lei, con la sua voce, la sua chioma di lunghissimi capelli ricci e il suo sorriso, l'ha folgorato in un attimo. La vuole. Sarah Brightman passa alla selezione. È felice, il suo sogno per ora è salvo. Eppure non sa ancora che da Cats al successo planetario, grazie ad Andrew Lloyd Webber, il passo è breve. I don't expect my love affairs to last for long. Never fool myself that my dreams will come true. Being used to trouble, I am it, but all the same I hate it, wouldn't you? Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Londra, nel West End, la via dei teatri dove ogni sera migliaia di spettatori fanno a gara per vedere i musical sontuosi ed entusiasmanti di cui Andrew Lloyd Webber è il re. È il 1981. Lui ha già avuto un successo strepitoso con Jesus Christ Superstar ed Evita e sta ultimando i provini per Cats. When they found their little den with the name written up on the door. Alla selezione è folgorato da una ragazza di 21 anni, dal sorriso irresistibile e la voce indimenticabile. Sara ha un'energia potente, è consapevole del suo talento e sogna una parte in un musical da quando è bambina. Al sì della commissione istintivamente inizia a ridere. Lloyd Webber, di solito scontroso e tendente alla malinconia, viene contagiato e va subito a parlarle. Come racconta Sara, lui con le donne ci sa fare. Lui è veramente fantastico con le donne. Quando ti parla ti fa sentire bene e al sicuro. E come ti coinvolge nella conversazione è meraviglioso. Tra i due nasce un'istintiva complicità. Ogni giorno, dopo le prove, si ritrovano soli in teatro a bere tè e a chiacchierare. Andrew è sposato, ma con sua moglie non è felice. Si accorge che in lui sta scattando qualcosa di più di una semplice simpatia. E Sara pensa lo stesso. È inevitabile, sboccia l'amore. Per un po' lo tengono nascosto, finché Andrew prende di petto la situazione, lascia sua moglie e chiede a Sara di sposarlo. Il sogno della giovane cantante adesso si fonde con quello della giovane donna. Accetta commossa. Cats, nel frattempo, è già in cartellone da mesi e sta andando benissimo. Si sposano Lui pensa a un regalo speciale per la sua Sara, splendida compagna ma anche cantante eccezionale. E così compone qualcosa solo per lei, qualcosa di cui lei andava così fiera da fare quasi tenerezza, come ricorda lui. Lei lo diceva sempre con tanto orgoglio. È la mia canzone, la mia canzone. La prendevo anche in giro. Ma lei era così orgogliosa. Andrew è un creativo, la presenza di Sara gli fa bene. Il regalo è un nuovo musical cucito addosso a lei. Sulle specificità della sua voce e del suo corpo, costruisce tutta la struttura musicale e narrativa. Sta nascendo il fantasma dell'opera ed è tutto dedicato a lei. My power. Il fantasma dell'opera è datato 1986. La storia, liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Gaston Leroux, racconta l'amore disperato di un geniale musicista dal volto sfigurato che vive nei sotterranei dell'Opéra di Parigi per la giovane soprano Christine Daae, legata sentimentalmente al visconte Raoul de Chagny. Fin dal suo debutto al Her Majesty's Theatre, nel West End londinese, dove è ancora rappresentato, riscuote un enorme successo di pubblico e critica. Sara, nel ruolo di Christine, è perfetta. Non è la prima volta che si trova bene in una parte, ma questa volta è diverso. Quella parte è stata pensata esclusivamente per lei. Le canzoni del fantasma dell'opera sono state scritte appositamente per la mia voce. E questa cosa è pazzesca, perché normalmente il cantante deve cantare qualcosa composto da Puccini o da Gershwin e non sai come loro hanno deciso di comporre queste melodie. Puoi immaginarlo, ma in questo caso io sapevo come le aveva composte e che le aveva composte appositamente per me. Dal canto suo, Andrew sa che non poteva scegliere un'attrice migliore. Se il fantasma dell'opera è diventato uno dei musical più grandi di tutti i tempi, è indubbiamente merito di Sara, del suo corpo e della sua voce. È bellissimo scrivere per qualcuno in modo specifico, per la sua voce. Il fantasma dell'opera è un successo clamoroso che richiama a Londra ogni anno migliaia di spettatori e li inebria con le sue vorticose scenografie, i costumi sontuosi, le atmosfere incredibili. Ogni istante il pubblico resta senza fiato. Se questo è stato possibile, è grazie a un incontro magico che il destino ha regalato a Sara Brightman e Andrew Lloyd Webber. Un incontro che ha lasciato le sue tracce nel musical e nel film che ne è stato tratto. E grazie a queste tracce, di quell'incontro magico, perfetto, emozionante, possiamo ancora godere anche noi, in eterno. Christine, come to me. He's on the prowl again. La voce di Sara è potente e melodiosa, diventa più pop o lirica a seconda del contesto. E il ruolo di protagonista nel fantasma fa sì che tutto il mondo se ne accorga. Sara in poco tempo diventa una star, il soprano di maggior successo in assoluto. Duetta con Bocelli e il risultato è da brivido. Con lui ha un'intesa vocale unica, come dice lei stessa. È incredibile perché è molto difficile trovare due voci che si completano così, così affini una all'altra. Sara conquista 150 tra dischi d'oro e di platino, diventando il soprano che venderà più album al mondo. Sara's stardom is truly global. She is an established recording and arena act in countries spanning all continents and has been awarded prominent prizes from Japan to Australia, Arabia to Europe and Latin America to the United States. La carriera di Sara è inarrestabile, mentre il matrimonio con Andrew finisce nel 1990. Rimangono però amici. Come non esserlo, dopo quello che ha significato quel regista scontroso per una giovane ragazzina che aspirava a fare la cantante, e dopo quello che lui, grazie a lei, è riuscito a comporre.